Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Anche questa settimana, care ascoltatrici e cari ascoltatori, non si può dire che non sia iniziata piena di cose, di fatti, di polemiche e soprattutto anche di tagli e di nuove tasse. Poi cercheremo di approfondire, si parla di legge di stabilità fra le altre cose, ma per adesso è tutto una bozza e domani ci sarà il Consiglio dei Ministri, quindi si saprà qualcosa di più certo. Però varie cose già si sapranno questa sera, parleremo anche di tutte le polemiche sul caso Priebke, di amnistia e di molte altre cose, ma innanzitutto partiamo dai titoli delle notizie principali. Partiamo dalla legge di stabilità, vi dicevo che è in arrivo domani, dentro ci sono delle nuove tasse, dei tagli alla sanità per più di 4 miliardi e il Presidente del Consiglio Letta precisa avrà un orizzonte di 3 anni. E poi c'è il caso Alitalia, British Airways si dice assolutamente contraria all'operazione Poste Alitalia perché dice è un aiuto di Stato, è protezionismo, mina la competizione e favorisce quelle compagnie aeree in fallimento che non sono al passo con la realtà economica e chiede British Airways che la Commissione europea intervenga. Amnistia, il ministro del PDL Quagliariello rilancia, valga anche per Berlusconi, mentre la ministra Cancellieri dice mai valutati i reati finanziari. E c'è anche il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che si fa sentire sull'argomento amnistia e dice no, va contro il senso di legalità, la certezza della pena e dire no al colle non è certo lesa maestà. E poi il caso Priebke, funerale e sepoltura dell'ufficiale nazista avverranno in forma strettamente privata, dopo le polemiche forse già in serata domattina, ma è ancora incerto il luogo di sepoltura, visto che molte città hanno espresso parere negativo. C'è poi la questione sempre dell'immigrazione, il ministro della difesa Mario Mauro, al termine del vertice di Palazzo Chigi dedicato all'emergenza immigrazione appunto, annuncia Mare Nostrum sarà un'operazione militare ed umanitaria e prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare per incrementare il livello di sicurezza delle vite umane. E poi il calcio con il CT Prandelli che interviene sulle polemiche suscitate da Ballotelli e dice su di lui ci sono esagerazioni ma se le cerca. Allora partiamo, come dicevamo, dalla legge di stabilità che sarà all'esame del Consiglio dei Ministri domani. Si parla però già di ulteriori tasse, di tagli, solo per la sanità ne sono previsti almeno oltre 4 miliardi, ma il governo frena e dice aspettate domani. Per il momento è una bozza, Vincenzo Miglietta, è così, però delle indiscrezioni già sono passate, no? Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Vincenzo. Aspettiamo domani, aspettate domani, dice Palazzo Chigi, lo ricordavi giustamente, ma non è il primo giorno che Letta, che l'intero governo rivolgono questo invito, soprattutto alla stampa. Anche la scorsa settimana erano circolate delle anticipazioni, evidentemente dovremo aspettare effettivamente il Consiglio dei Ministri di domani per vedere nello specifico nero su bianco quali saranno le misure che poi saranno portate in Europa. È bene ricordare, ma lo hai già fatto tu abbondantemente, che il provvedimento non riguarda solo il prossimo anno, ma è un piano di intervento per i prossimi 3 anni che secondo le stime del governo dovrebbero vedere la ripresa e quindi questo dovrebbe essere un provvedimento proprio per facilitare il ritorno ad un prodotto interno lordo positivo. E Roberta, come al solito la legge di stabilità, la possiamo anche chiamare la vecchia finanziaria. Contiene sia degli interventi di spesa ma anche poi un riutilizzo di queste risorse che vengono recuperate attraverso o tagli o nuove tasse. Ricorderei solamente il superamento dell'attuale situazione dell'IMU ma anche della TARES che conosciamo. Purtroppo vengono utilizzati dei nomi sempre abbastanza difficili. Cambiano nome ma poi ci sono sempre. Da ricordare in questo caso lo prendiamo sempre col beneficio di inventario, ma comunque domani vi sarebbe il varo, l'arrivo della cosiddetta TARSI che va a sostituire quindi TARES ed IMU, scusate si chiama TRISE la nuova tassa, quindi è composta da due elementi e poi come al solito tagli alla sanità, tagli agli enti locali, blocco delle pensioni sia di quelle medio-alte ma anche delle cosiddette pensioni d'oro e poi fondamentalmente l'auspicio è questo delle parti sociali, vi dovrebbe essere il famoso taglio al cuneo fiscale che dovrebbe lasciare in busta paga più soldi rispetto a quella a quelli che le imprese versano per i lavoratori dipendenti. Che non dovrebbero essere cifre eccezionali, ma staremo a vedere domani, come si è detto. Grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Grazie. Vincenzo. E intanto, per quanto riguarda il caso Alitalia, arrivano delle grosse critiche all'operazione che vede un pezzo dello Stato, cioè le Poste, entrare nel capitale della compagnia aerea. Che succede, Valentina Furlanetto? Roberta, come tu dicevi, ci sono delle forti polemiche intorno alla partecipazione di Poste Italiane all'aumento di capitale per 75 milioni. Poste Italiane ha dato la disponibilità, come sapete, e oltre alle polemiche che ha suscitato questa scelta sulla sua opportunità in termini di politica economica, si sono levate anche proteste internazionali, in particolare i vertici della holding che controlla British Airways hanno chiesto l'intervento della Commissione Europea per sospendere questo aiuto che hanno definito illegale, un aiuto di Stato. Il portavoce del commissario europeo alla concorrenza Joachim Almunia ha ribattuto che solo dopo la notifica delle misure saranno in grado di valutare la loro compatibilità con le norme europee sugli aiuti di Stato. Intanto però l'operazione di salvataggio è stata approvata dal Consiglio di amministrazione quest'oggi. È tutto. Grazie Valentina Furlanetto. E passiamo a una vicenda che ha infiammato non poco il dibattito politico, sociale, generale, insomma, dopo la morte di Erich Priebe, che si è creato il problema dei funerali, della sepoltura, dato che, come sapete, non si tratta di una persona con un passato qualunque, è vero Roberta Pellegatta? Che è successo in questa convulsa giornata? Sì, buonasera. È successo di tutto e il risultato è che ancora non c'è alcuna certezza sul destino della salma di Erich Priebe, che è questo ex capitano dell'SS condannato all'ergastolo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui morirono, lo ricordiamo, 335 persone nel 1944. Il criminale nazista è morto l'11 ottobre scorso a 100 anni a Roma, dove scontava i domiciliari. Da allora nessuno vuole prendersi la sua salma o ospitare i suoi funerali. Dopo una serie di no arrivati dall'Argentina, dove è sepolta la moglie di Priebe, che da Roma, da Pomezia, che ospita un cimitero militare germanico, persino dal paese natale di Priebe, che è Enixdorf, che è a pochi chilometri da Berlino, un'apertura è arrivata da un comune del messinese, Fondachelli Fantina. Il sindaco Marco Antonino Pettinato ha spiegato la sua disponibilità ad ospitare la salma come un gesto di umanità cristiana. Il legale di Priebe, che Paolo Giacchini, ha detto che la tumulazione a Fondachelli Fantina è un'ipotesi concreta. Vedremo come andrà a finire, anche perché nel paesino del messinese è scoppiato un putiferio a partire dal vice sindaco e da un assessore che hanno preso le distanze dal primo cittadino dicendosi pronti alle dimissioni. Stesso stallo sui funerali. L'avvocato Giacchini ha detto: stiamo valutando tutto, compresa quindi l'ipotesi prima rifiutata di una celebrazione privata, forse domani, forse giovedì, all'interno dello stesso obitorio che ospita la salma di Priebe. Quindi non è ancora finita, grazie, staremo a vedere Roberta Pellegatta. E intanto il governo è sotto tiro per l'amnistia. Il ministro Quagliariello del PDL preme perché valga anche per Berlusconi eventuale provvedimento, ma PD e Guardasigilli, cioè la ministra Cancelleri, frenano e dicono esclusa la frode fiscale. Lo si potrebbe chiamare l'indulto della discordia. Non si placano infatti le polemiche sull'invito del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Parlamento ad affrontare l'emergenza carceri. E dopo le critiche all'ipotesi di un'amnistia arrivate da Matteo Renzi, a rendere più duro lo scontro, la possibilità che il provvedimento riguardi anche Silvio Berlusconi. Il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ha escluso che l'ex premier possa beneficiare di atti di clemenza, precisando che i reati finanziari non sono stati mai presi in considerazione, ma non è dello stesso avviso il ministro Gaetano Quagliariello ai microfoni di Radio 24. Rimango convinto che una legge debba essere applicata a tutti i cittadini. Donatella Ferranti del PD e presidente della Commissione Giustizia della Camera ricorda come sia comunque il Parlamento a dover stabilire i reati per cui è prevista l'amnistia. Ma Michele Emiliano, sindaco di Bari e presidente del PD pugliese, si stacca dalla linea del partito e Radio 24 ricorda come atti del genere in realtà servano a sistemare politicanti arrestati o condannati. A gettare acqua sul fuoco interviene però anche la presidente della Camera, Laura Boldrini. Non può essere neanche che si arrivi a una soluzione tampone, perché il fenomeno è strutturale. Valentina Innocente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda invece, anzi restando sulla questione carceri, sentiamo la prima puntata del viaggio di Raffaella Calandra nei penitenziari italiani. Se fossero tutte così, le carceri non sarebbero quell'inferno disumano che suscita vergogna nelle istituzioni e biasimo da parte della Corte Europea. Se fossero tutte così, le carceri forse sarebbero davvero quel luogo di rieducazione indicato dalla Costituzione, ma invece casi come questo di Bollate restano eccezioni, sia pur in aumento, di un'altra detenzione possibile. Porte delle celle aperte, pareti affrescate, via vai di detenuti. Quando si entra in questa casa di reclusione, struttura cioè solo per detenuti definitivi, alle porte di Milano non c'è quel senso di claustrofobia, in genere subito pronto a cingerti una volta che il cancello si chiuda alle spalle. Qui infatti, più che i rumori di chiavi e celle, si sentono suoni di laboratori per falegnami, elettricisti o cuochi ed echi di lezioni scolastiche. Qui il rapporto tra ospiti 1100 e capienza 800 è quasi rispettato, e questa è la prima condizione per quel patto di responsabilità, per dirla con gli operatori, che rende possibile che ogni giorno 170 detenuti escano dal carcere per andare a lavorare, o che all'interno della struttura inaugurata nel 2000 altri possono godere di più opportunità elencate dal direttore Massimo Parisi. Abbiamo grossi call center, attività di riparazione anche di telefonini all'interno, abbiamo la scuola alberghiera, la scuola dei ragionieri, un polo universitario, abbiamo detenuti che oltre che lavorare fuori fanno lavori socialmente utili. Qui a Bollate i detenuti lo sanno di essere più fortunati, perché in queste celle loro il vero inferno delle prigioni non l'hanno mai sperimentato. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E spostiamoci all'estero. È stato rimandato, a proposito di debito pubblico americano, dell'accordo tra repubblicani e democratici, l'incontro fra il presidente Barack Obama e il Congresso, cioè il Parlamento, e viene posticipato per concedere alle parti più tempo per trattare, lo annuncia la Casa Bianca. Parliamo di immigrazione. Al via da domani l'operazione Mare Sicuro, cioè la missione militare umanitaria annunciata da Letta in un vertice a Palazzo Chigi. E i ministri dell'interno, della difesa e degli esteri hanno definito i dettagli. Anche oggi intanto ci sono stati nuovi sbarchi sulle nostre coste. 1500 uomini, 6 navi di grossa stazza, alle quali potrebbero aggiungersene altre 3 aerei di pattugliamento, eventualmente anche droni a sorvolare il cielo sopra il canale di Sicilia, parte ufficialmente la missione militare umanitaria Mare Sicuro, un piano per fermare le stragi del mare, perché, ha spiegato Letta, è intollerabile che il Mediterraneo sia un mare di morte. Tutto questo in attesa di un coordinamento maggiore con l'Europa, perché il problema evidentemente non può riguardare solo un paese. E a Bruxelles, in occasione del vertice del 24 e 25 ottobre, Letta intende chiedere accordi europei con i paesi di partenza e d'origine dei migranti, nuove regole sull'asilo e il potenziamento di Frontex, il pattugliamento marittimo europeo. Ma intanto continuano in Italia gli sbarchi di immigrati. Una motopesca con a bordo 137 siriani è approdato all'alba al porto di Lampedusa. A bordo anche donne e bambini, tutti in buone condizioni di salute, mentre in mattinata 155 migranti di varia nazionalità sono sbarcati a Ragusa e trasferiti nel centro di prima accoglienza di Pozzallo, 11 invece quelli arrivati nel Trapanese. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Cambiamo argomento e parliamo di cultura, o meglio del decreto cultura, che sta creando un po' di subbuglio. Paolo Panceri. Sì, c'è una rivolta di tutti i teatri italiani da nord a sud, anche se a Milano ci sono due palcoscenici di prima grandezza, cioè la Scala e il Piccolo Teatro, che si stanno coalizzando per chiedere al governo perlomeno che rimetta mano a quanto è stato previsto nel nuovo decreto, che adesso è diventato la legge 112. Le modalità però di azione sono diverse. Ad esempio, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che è presidente del consiglio di amministrazione della Scala, lo ricordiamo, per il momento sceglie la strada diplomatica e attende di incontrare in settimana il ministro della cultura Massimo Brai per discutere della nuova legge. Invece, in serata, poche ore fa, i soci del Piccolo Teatro hanno approvato un ordine del giorno in cui chiedono al governo un provvedimento urgente e straordinario contro il rischio chiusura. Per fare un esempio, il decreto ora equipara il teatro, il Piccolo Teatro, alla pubblica amministrazione con i pro, ma soprattutto con i contro. In pratica, oltre ai tagli, sempre per fare un esempio, il Piccolo avrebbe addirittura difficoltà a trovare e a ottenere anche le sponsorizzazioni, che adesso sono libere, mentre invece con la nuova normativa dovrebbero essere effettuate e trovate tramite bandi di concorso, come viene per la pubblica amministrazione. E per il momento è tutto. Grazie Paolo Panceri. Così abbiamo parlato anche di cultura, delle difficoltà abbastanza perenne nel nostro paese del settore culturale. Ci prendiamo una pausa per aggiornare chi sta viaggiando e tra poco insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano ancora con voi, vi ricordo quelli sono i titoli principali, poi passeremo al primo ospite. La legge di stabilità è in arrivo domani, dentro abbiamo sentito ci sono delle nuove tasse, dei tagli alla sanità per più di 4 miliardi e il Presidente del Consiglio Letta precisa avrà un orizzonte di 3 anni, ma il governo dice anche aspettiamo domani perché per ora è una bozza. All'Italia British Airways si dice assolutamente contraria all'operazione tra Poste Italiane e all'Italia perché dice è un aiuto di Stato e protezionismo e mina la competizione e favorisce quelle compagnie aeree in fallimento che non sono al passo con la realtà economica e chiede l'intervento di Bruxelles. E poi la questione amnistia, il ministro del PDL Quagliariello rilancia, valga anche per Berlusconi, scoppia il caso Renzi che si dice contrario all'amnistia perché è contro il principio del rispetto della legalità e della certezza della pena e il sindaco di Firenze sottolinea tra l'altro dire di no al Colle, visto che era stata lanciata da Napolitano questa cosa, non è lesa maestà. Il caso Priv, che funerale e sepoltura dell'ufficiale nazista avverranno in forma strettamente privata dopo le polemiche di queste ore, ma è ancora incerto il luogo di sepoltura, visto che molte città hanno espresso parere negativo. Calcio, il CT Prandelli interviene sulle polemiche suscitate da Balotelli e dice su di lui ci sono esagerazioni, ma se le cerca. Stavo guardando a Piazza Pulita, c'era Stefano Fassina, viceministro dell'economia, ma adesso c'è la pubblicità, stava parlando probabilmente della polemica anche con Matteo Renzi, anche all'interno del PD sull'amnistia. Magari sentiamo dopo che cosa si dice, ma adesso comincerei a salutare il primo ospite. Che è Massimo Cacciari, benvenuto, buonasera Massimo Cacciari. Buonasera. Filosofo, già sindaco di Venezia, sempre estremamente attento alle questioni che riguardano la religione, la laicità, il rapporto tra religione e laicità. E Massimo Cacciari mi pare sia stato tra almeno diciamo gli intellettuali di spicco in queste ore uno dei pochi a dire insomma basta, finiamola qui questa manfrina della sepoltura di Prib, che insomma ha diritto anche lui, è comunque un per carità cristiana, e questo è il motivo per cui dice basta con queste polemiche, diamogli... No, carità cristiana è una parola troppo impegnativa, è un criminale, un disgraziato che è stato giudicato dagli uomini, dai tribunali di ogni ordine e grado, le sue idee sono state condannate ormai da tutti gli uomini che hanno il diritto di chiamarsi tali. Basta, no? Basta, adesso è morto, con lui è morta tutta la storia, da tempo tutta la storia che rappresenta, si seppellisca e basta, certo, senza cerimonie, senza onori funebri, ma si seppellisca e basta, ma c'è bisogno di parlarne. Quindi lei, Cacciari, mi perdoni, è d'accordo sul fatto che non ci debbano essere funerali in chiesa? Come, insomma, ma queste sono questioni che riguardano la chiesa. Sono questioni che riguardano, diciamo così, la tra virgolette autorità della Chiesa. Se la Chiesa ritiene che sia possibile fargli un funerale, farà un funerale. Queste sono cose che non riguardano nessun laico, riguardano la Chiesa e la coscienza della Chiesa. La Chiesa ha rifiutato a volte, in certi momenti, addirittura la sepoltura con le sue cerimonie ovviamente religiose ai suicidi, figurarsi se non può rifiutarla un Priebke. O chi ha praticato l'eutanasia, no? Anche Guaelbi. O chi ha rifiutato l'eutanasia, eccetera, eccetera. Quindi la Chiesa è del tutto legittimata in base al suo diritto canonico a rifiutare la sepoltura a un Priebke, ma cosa c'entra? Bisogna lasciarlo insepolto, tipo Polinice. Non so se ricorda l'Antigone di Sofocle, no? Ecco, insepolto, poi mangiato dagli avvoltoi, ai cani e agli avvoltoi, non so se siamo barbari fino a questo punto di pensare che appunto questo disgraziato criminale debba essere lasciato, non so, su una torre preda degli avvoltoi, non so, penso di no, penso che nessuno sia così pazzo da pensare una cosa di questo genere, quindi lo si seppellisca senza tante storie. Dico, ci sono cose più importanti, più serie di cui discutere. Stavo guardando anche sui social network, sulla pagina per esempio di Effetto Note, insomma sono tutti un po' contrari, anche con una certa veemenza, probabilmente perché, come dice, ma insomma riconoscergli diciamo dei riti abbastanza tradizionali. Ma vogliamo scherzare, riconoscere che cosa? Che non può essere sepolto? Che venga cremato, non lo so, ricorriamo a riti di altre civiltà, cioè bruciamolo su un rogo, che cos'è? Oppure lo abbandoniamo appunto a cani e avvoltoi come Polinice? Ma che discorsi sono? Ma abbiamo portato proprio il cervello all'ammasso in questo paese. Cacciari, c'è anche un sacerdote, Don Severino, d'amico, che scrive: un funerale per un cristiano è un diritto, tutti hanno diritto a prescindere dalla vita vissuta. In questo caso, fossi io a decidere, dice, lo celebrerei come per chiunque. Semmai, dice questo sacerdote, credo che la sepoltura dovrebbe essere, se così posso dire, una punizione. Io la metterei sottoterra in un angolo e senza alcuna lapide, sapete dove? Alle fosse ardeatine. Alle fosse ardeatine. Dice ma per carità, le fosse ardeatine sono consacrate a quei poveracci che sono stati fucilati lì, ci mancherebbe altro di metterci perché questo mi pare una follia ancora più folle di quelli che protestano perché viene sepolto. Senta, in tutto questo però il figlio di Pribke, che forse avrebbe potuto cogliere l'occasione per evitare, dall'Argentina ha lanciato una provocazione: sì, venga sepolto in Israele così saranno contenti. E da Israele dicono, il ministro degli esteri, dicono, non vale neanche la risposta. Diciamo le provocazioni alle follie, la cosa è semplicissima: venga preso questo signore e sepolto, i parenti se lo prendono e se lo seppelliscono dove ritengono, dove c'è posto, fine dei giochi. Dopodiché questo non significa dimenticare nulla, questo non significa neanche essere dei folli che pensano che non possa essere sepolto, che non ci possa essere terra capace di accoglierlo. Allora appunto quello si mette, abbiamo letto l'Antigone di Sofocle, è quello che vogliamo? Non lo so, voglio dire, o un cadavere si seppellisce oppure si lascia presa i cani e gli avvoltoi, non ci sono altre possibilità. Cacciari, ma il Presidente del Consiglio Letta ha letto tutta questa ostilità, forse anche in una chiave, diciamo, anche positiva, perché dice: in questi giorni abbiamo assistito a qualcosa che ci dimostra che è impossibile pensare che è il tempo che passa a chiudere le ferite della storia. Sì, ma sono tutte chiacchiere, tutta retorica. Non ne posso più, che ci studi nelle scuole seriamente che cosa è stato il nazismo, la straordinarietà di questo regime criminale, peggio, che se lo studi seriamente, è così che si ricorda, non si ricorda con le battute teoriche, con le battute retoriche, non si ricorda con la retorica, si ricorda con lo studio cosa è stato il nazismo, e così si evita anche ogni pericolo, ogni rigurgito in quel senso, con la serietà, nelle scuole, con la memoria, studio, con l'educazione, non con queste battute retoriche nei momenti degli anniversari o nei momenti in cui si tratta semplicemente di seppellire un povero disgraziato criminale certamente per me è del tutto imperdonabile, dopodiché io non escludo che una persona possa avere un'altezza per me così straordinaria da poter perdonare anche questo, ma questo per me è impossibile, io non posso perdonare crimini di quel genere, però non sono così idiota da non pensare che qualcuno possa anche giungere ad un'altezza tale, da una nobiltà d'animo tale da perdonare dopo 60, 70, 80 anni quello che è successo. Io non posso. Peccato che non si sia mai pentito, si fosse pentito forse qualcuno sarebbe stato un pochino più facile. Ma cosa c'entra il pentimento un altro? Cioè cosa c'entra vincolare il mio atto eventuale di perdono al pentimento di un altro? Io perdono per me, non perché un altro, non è una questione di scambio, di do to des, tu ti penti, io ti perdono. Ma perché non cominciamo a ragionare? Senta, a proposito di perdono, Cacciari, poi la ringrazio e la saluto. Sull'amnistia invece, no? Qual è il suo pensiero? Sentito... Ma è una cosa anche quella incredibile, dei poveracci che fanno strumentalismi su queste cose. Ha perfettamente ragione il Presidente Napolitano. È evidente che in una situazione carceraria di questo genere, come ieri ha detto anche il mio amico Manconi, tutte le persone che se ne intendono sanno che la situazione carceraria è diventata di un tale livello di inciviltà, ha raggiunto una tale inciviltà che per cominciare a pensare in Italia di migliorarla è necessaria un indulto, un'amnistia, la chiami come vuole, è necessario mandare migliaia di persone fuori dalle carceri. Secondo lei questo però non ingenera la sensazione nella gente, nell'opinione pubblica, che evidentemente chi paga non sempre, chi sbaglia non paga? Io non pago un politico perché segua l'opinione pubblica, io pago un politico perché decida cose giuste, necessarie, utili. Non perché segui i sondaggi e l'opinione pubblica. No, ma non per l'opinione pubblica, nel senso di giustizia, il senso di giustizia che dobbiamo. Giustizia oggi, l'ingiustizia somma oggi è tenere la gente in carcere in quelle condizioni. Quella è l'ingiustizia, degna veramente, tra virgolette, di un nazista. Chiarissimi i suoi pensieri. Grazie Massimo Cacciari, buona serata. Grazie. Abbiamo sentito proprio nettezza di pensiero di Massimo Cacciari. Poi su alcuni argomenti sentiremo anche dopo Pippo Civati del PD. Però adesso ci prendiamo un'altra pausa. Vi ricordo sempre che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, vari commenti sul caso Prib, che è anche su altre questioni. Quindi a tra poco anche con i titoli. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano per proseguire con voi sino alle 22 con gli ospiti, con le notizie e approfondimenti, ma ripartiamo anche dai titoli. La legge di stabilità è in arrivo domani in Consiglio dei Ministri, dentro ci sono nuove tasse, tagli alla sanità per più di 4 miliardi, il Presidente del Consiglio Letta precisa avrà un orizzonte questa legge di stabilità di 3 anni. C'è il caso poi all'Italia, British Airways si dice assolutamente contraria all'operazione tra Poste Italiane e Alitalia perché dice è un aiuto di Stato e protezionismo e chiede l'intervento della Commissione Europea. Il caso dell'amnistia, il ministro PDL Quagliariello rilancia, valga l'amnistia anche per Berlusconi e scoppia il caso Renzi che si dice contrario all'amnistia perché contro il principio del rispetto della legalità e della certezza della pena. Poi c'è il caso Prib che continua a fare discutere, funerale e sepoltura dell'ufficiale nazista verranno in forma strettamente privata dopo le tante polemiche di queste ultime ore, ma è ancora incerto il luogo di sepoltura visto che molte città hanno espresso parere negativo, sembra che si faccia avanti un comune del messinese. Immigrazione, il ministro della difesa Mauro al termine del vertice di Palazzo Chigi dedicato all'emergenza immigrazione annuncia Mare Nostrum sarà un'operazione militare e umanitaria e prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare per incrementare il livello di sicurezza. Calcio, il CT Prandelli interviene sulle polemiche suscitate da Balotelli e dice su di lui ci sono esagerazioni ma se la cerca. E vi presento adesso un altro ospite. Che è Pippo Civati. Buonasera Pippo Civati. Buonasera. Poi Pippo non ho mai capito se preferisce Giuseppe o Pippo, però visto che tutti la chiamano Pippo immagino che le faccia piacere, sennò avrebbe corretto da tempo, no? Ma sì, tra amici va bene. Va bene, quindi come ci consideriamo? Io la devo chiamare Giuseppe allora? No, nel senso che è un motivo di simpatia per me. Bene, bene, allora è reciproca questa cosa, quindi la chiamerò Pippo. Naturalmente uno dei 4 candidati alle primarie per la segreteria del PD dell'8 dicembre, è deputato PD. Non so se ha visto, è uscito l'ordine, lo saprà, dei vostri nomi, dei 4 candidati sulle schede delle primarie. Allora c'è prima Gianni Cuperlo, poi Matteo Renzi, Gianni Pittella e Pippo Civati. Gli dà fastidio che lei è proprio il quarto, ultimo, dulcis in fundo magari. Ma gli ultimi saranno i primi. Saranno i primi. Evangelico. Glielo auguro. Senta Civati, partiamo, se vuole, ha fatto delle dichiarazioni oggi, diciamo il succo è questo, se ci sarà una maggioranza che sostiene le ragioni che io porto in campo, questo governo, cioè quello delle larghe intese, finirà, bisogna fare la legge di stabilità, la legge elettorale e poi andare al voto. Quindi lei è uno, diciamo, dei più insofferenti a queste larghe intese, no? Quindi conta di fare se dovesse. Sì, non sono insofferente, penso che non risolvano i problemi del paese perché sono un compromesso, non sempre al rialzo, a volte purtroppo anche nei titoli che lei leggeva al ribasso e che non risponde alla radicalità delle questioni che questo paese invece si trova ad affrontare. Che cosa pensa della questione amnistia, indulto e questi provvedimenti rilanciati sul tappeto dal presidente Napolitano in questi giorni? Ha sentito anche le polemiche suscitate dall'intervento di Renzi che ha detto vabbè contrariare Napolitano non è che deve essere considerata lesa maestà, ha detto che è diseducativo parlare di amnistia e di indulto, dice soprattutto per i nostri giovani, non si può far passare, dice Renzi, il messaggio che la legalità è una bandierina che tiri fuori ogni 10 anni, fare amnistia al fallimento della politica è un clamoroso autogol. Lei come la pensa in merito a questi eventuali provvedimenti? Io penso che l'autogol l'abbia segnato Renzi, perché si tratta di un provvedimento certo tardivo, certo pieno di incognite, da precisare molto bene dal punto di vista tecnico, però necessario proprio per rispettare il principio di legalità a cui Renzi si richiama. Queste carceri non sono legali, la situazione dei nostri detenuti è una situazione incivile, non per colpa loro che hanno fatto degli errori, sono colpevoli, in alcuni casi sono in attesa di giudizio come Renzi sicuramente saprà e si trovano però a vivere in condizioni al di sotto dell'umanità e questo non possiamo accettarlo, quindi qualsiasi soluzione che precisi meglio l'intervento, che sappia interloquire con quello che dice il Presidente della Repubblica, va bene. Rifiutarla sulla base forse di un calcolo dei sondaggi o del consenso al Congresso, di una campagna che si vuole fare nell'opinione pubblica, è molto sbagliato. Sentiamo una, proviamo a alzare un attimo Civati, c'è Piazza Pulita e c'è Fassina del suo partito, vice ministro dell'economia, mi pare stia parlando di Alitalia, sentiamo. Circoscritto, transitorio, finalizzato a trovare una soluzione stabile, perché quella attuale, quella di oggi, non è una soluzione stabile. Adesso sentiamo un attimo il parere dei miei ospiti che tra poco vi presento, tra un secondo, però lei ha detto una cosa importante prima, sicuramente diciamo... Forse quello che meritavano gli azionisti era che si andasse alla svendita. Parlo di Alitalia. Non si può subordinare il salvataggio di Alitalia all'accompagnamento alla porta di questi azionisti? Questi azionisti ricapitalizzano. Gli altri 225 milioni della ricapitalizzazione da 300 milioni è fatta dagli azionisti che ci sono. Questo deve essere chiaro. Quindi Poste mette 75 su 500. Ma conviene tenerceli, diciamo, questi azionisti? Ma questo lo deciderà il mercato. Visto il capolavoro che hanno fatto. Insomma, questo capolavoro che hanno fatto, non l'hanno fatto da soli, perché le responsabilità della politica sono enormi, perché quanto oggi si verifica, se lei riprende le dichiarazioni corrispondenti nel periodo a quelle di Berlusconi fatte da Bersani o chi per lui in quel momento, da Veltroni in quel momento, lei trova il destino annunciato che poi in questi giorni si è verificato, perché quella roba là non stava in piedi. Era evidente. Civati, lei ha un suo pensiero, una sua tesi sull'Italia? Questo era Fassina, il suo collega di partito. Sì, secondo me ha ragione British Airways. Sì, è un pasticcio, è una matriosca di pasticci. Che chiede l'intervento di Bruxelles, perché dice questo è protezionismo, aiuti di Stato non ci stiamo, è concorrenza sleale. Ma l'intervento delle Poste è stato criticato da tutti gli economisti di tutti i colori, i politici, di tutte le sensibilità. Mi pare davvero una mossa azzardata che si inserisce, come dicevo, in una serie di errori che Fassina ricordava, che però non devono consentire comunque passaggi così scopertamente, come dire, fuori dal mercato, perché di questo si tratta, insomma. E adesso io vorrei far sentire, Pippo Civati, invece un pezzo del discorso di Renzi di 2-3 giorni fa, quando ha lanciato ufficialmente la sua candidatura, parlava di marchi, di Coca-Cola, sentiamolo un attimo. Non so chi di voi beve la Coca-Cola, ha messo il nome la Coca-Cola, ha messo il nome sulla lattina, sulla bottiglietta. E tu trovavi la gente al supermercato a cercare quella con... Ora la Nutella farà una cosa simile. Dice, caspita, il massimo che riesci a trovare come esempio è la Coca-Cola e il nome. È la Nutella e il nome. Guardate che secondo me c'è qualcosa di molto più grande dietro a questo. Non è soltanto una campagna di marketing. È l'idea che in un tempo di anonimato, in una società anonima che non è una struttura del diritto commerciale, ma è una visione sociale e sociologica, tu hai bisogno di farti chiamare per nome, di farti venire incontro per quello che sei, di essere considerato una persona in grado di stare in relazione con gli altri. È questo il modo di cambiare verso il PD. Lei ha capito bene cosa intendeva con questo Matteo Renzi? Sì, non era difficilissimo l'esempio. Per chi non lo sapesse, chi beve ogni tanto la Coca-Cola vede che sulle lattine adesso c'è il nome Elena, Francesco, a volte papà, zia, mamma, il cugino, insomma, ti fa sentire qualcosa di più familiare, di più vicino, come se tu fossi in prima persona o qualcuno che accanto a te fosse quasi nominato, e quindi lui dice che bisogna avere un rapporto più caldo, più bidirezionale con l'elettorato? È d'accordo? Sì, no, ma su questo ha ragione, l'esempio è proprio marketing oriented, diciamo, è proprio una mossa pubblicitaria. Ognuno ha riferimenti culturali a cui aspira. Questa è una bella stoccata, mi sembra. Però il punto è quello, su questo invece Matteo ha ragione, cioè bisogna ricostruire un rapporto tra cittadini e politica che sia molto più diretto, più immediato, con un linguaggio più semplice, perché parliamo una lingua stranissima, sembriamo dei marziani a volte, troviamo sempre un giro di parole adeguato per non rispondere, abbiamo sempre la preoccupazione di mandare un messaggio a questo o a quel leader politico e ci dimentichiamo di parlare direttamente con gli elettori. Su questo lui, devo dire la verità, è molto capace Il problema è quale verso far prendere alle cose, perché, ripeto, se poi il congresso deve iniziare con un dibattito molto scivoloso sulle questioni dei detenuti, mi sembra invece che sul contenuto siamo molto lontani. Se lei dovesse dire, Pippo Civati, rispetto agli altri tre candidati, Gianni Cuperlo, Matteo Renzi e Gianni Pittella, che cosa lo accomuna e che cosa invece la distingue, la differenza? Per esempio da Gianni Cuperlo? Beh, io non sono sponsorizzato da tutti quelli che ci sono sempre stati. L'establishment. Gianni ha collaborato a lungo con Massimo D'Alema e basta dire così e ci siamo capiti. Con Renzi che ci fosse più assonanza all'inizio e poi piano piano ha preso lei un po' la sua strada, Civati. Ma io ho la fortuna di conoscere e di stimarli davvero tutti, non lo dico solo perché siamo durante una fase congressuale, io ho davvero un'amicizia con loro, per cui non mi permetto di dire che non siano capaci o all'altezza, anzi. Penso però che ci siano delle differenze in campo politico notevole in termini di libertà, di ricambio, di rinnovamento vero. Insomma, chi votasse me voterebbe non tanto per mandare a casa quelli che ci sono, ma per sostituirli con persone di grande qualità e forse un po' più libere e forse più contemporanee. Non so se mi sono spiegato. Cioè, al di là dell'età, più presenti a quelle che sono le esigenze attuali, a quello che è il mondo reale, senza essere troppo astratti. Ecco, sì, intendo dire proprio questo, per cui insomma con Renzi c'è Franceschini, c'è una gran parte del mondo di Enrico Letta, Francesco Boccia, tanti altri importanti esponenti del PD, con Cuperlo c'è tutto il blocco D'Alemiano, Bersaniano, quelli che hanno governato il partito in questi anni, con me c'è una nuova proposta di persone che fanno politica, lo fanno a livello nazionale, a livello locale, ma che non si risolvono nella storia del PD, insomma, nelle vicende interne. Civati, per chiudere, mi dice 2-3 punti di quello che sarebbe il suo programma di governo, adesso al di là della legge di stabilità, della legge elettorale, facciamo finta che siano superate, chissà quando, insomma, facciamo finta, ma 2-3 punti saldi, fermi del suo eventuale programma. Ma guardi, il primo è quello che hanno condiviso gli industriali, i giovani e quelli più maturi, il Fondo Monetario Internazionale, i sindacati, che è intervenire sulle tasse sul lavoro e non su quelle sul patrimonio, una battaglia che sembra difficilissima da fare, ma noi incredibilmente con i chiari di luna sui conti pubblici abbiamo cancellato una tassa sulla prima casa tutti quanti, indistintamente, solo perché era una promessa elettorale di Berlusconi, questo è il primo punto. Il secondo punto è intervenire per riequilibrare alcune condizioni di reddito che ci sono, che riguardano soprattutto le pensioni cosiddette d'oro, o quantomeno quelle che superano la contribuzione che c'è stata nell'attività lavorativa, nella carriera lavorativa e che forse possono essere toccate con un contributo di solidarietà. E la seconda cosa, altrettanto importante, è intervenire perché nessuno nella pubblica amministrazione guadagni più del Presidente della Repubblica, che mi sembra un tetto sufficiente, ben remunerato per evitare sperequazioni. Questo può riguardare anche qualche politico, magari anche me stesso, però sarei ben felice se fosse una norma di questo tipo. La terza cosa è che vorrei che il Paese parlasse in termini culturali anche di questioni che sono sempre considerate di nicchia, come l'ambiente, l'innovazione, la cultura, che fanno parte di una nuova stagione anche dal punto di vista produttivo per quanto mi riguarda, e la politica sembra invece considerarle appunto gli ultimi capitoli di un progetto, non si arriva mai, no? Non si fa mai in tempo a discuterne, quindi uno sguardo su quello che cambia nel mondo e che in Italia invece tende a non cambiare mai. Quindi insomma prepariamoci all'8 dicembre che vinca il migliore, se non ci sentiamo prima, Civati, che può darsi, se lei sarà disponibile, va bene? Un grande piacere. Grazie, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E a proposito delle notizie vi ricordo i titoli principali. Con la legge di stabilità, tanto per cominciare, che ne arrivo domani, dentro ci sono nuove tasse, tagli alla sanità per più di 4 miliardi e intanto il Presidente del Consiglio Letta dice che dovrà avere un orizzonte questa legge di stabilità di 3 anni. All'Italia, British Airways si dice assolutamente contraria all'operazione Poste all'Italia perché dice è un aiuto di Stato, è protezionismo, mina la competizione e chiede quindi British Airways l'intervento della Commissione europea. Amnistia, nuove polemiche, il ministro del PDL Quagliariello rilancia, valga anche per Berlusconi e intanto Renzi si dice contrario all'amnistia, dice poiché è contro il principio del rispetto della legalità e della certezza della pena. Il caso Priebke, il funerale e la sepoltura dell'ufficiale nazista avverranno in forme strettamente private. Ci sono state molte polemiche nelle ultime ore, ma è ancora incerto il luogo di sepoltura, visto che molte città hanno espresso parere negativo. Immigrazione, il ministro della difesa Mario Mauro, al termine del vertice di Palazzo Chigi dedicato all'emergenza immigrazione, annuncia Mare Nostrum sarà un'operazione militare umanitaria. E poi il calcio, CT Prandelli interviene sulle polemiche suscitate da Balotelli e dice su di lui ci sono esagerazioni, ma se le cerca. E parliamo anche del Nobel per l'economia. Ne parlo con Francesco Daveri, buonasera. Francesco, buonasera. Docente di economia all'Università di Parma, collabora col Corriere della Sera, hanno questi tre che sono stati premiati con il premio Nobel, Eugene Fama, Lars Hansen e Robert Schiller, hanno vinto il premio Nobel perché hanno inventato degli strumenti per prevedere e analizzare l'andamento dei mercati. Quindi mi viene da chiedere, è possibile che avessero anche inventato uno strumento per prevedere anche tutta la crisi che c'è stata, oppure sono cose molto distinte da veri? Beh, Schiller in realtà qualcosa ha fatto, nel senso che sono tanti gli economisti che dopo la crisi hanno detto io l'avevo detto, però il problema è riuscire ad avere un economista che dica ci sarà una crisi il tal giorno o il tal anno, ecco, e questa è una cosa molto più difficile. Però Schiller è uno dei pochissimi che l'aveva fatto, perché lui aveva cominciato grosso modo nel 2004-2005 a avvertire che il mercato della casa non avrebbe potuto continuare a salire. Forse il vero Nobel andrebbe assegnato per quello, anche se poi nessuno evidentemente l'ha ascoltato o l'ha voluto ascoltare, Francesco Daveri. Insomma, lui ha fatto il suo mestiere di Cassandra e quindi adesso gli viene dato il Nobel anche per questo. C'è da dire però che il Nobel viene dato anche a Eugene Fama, che semplificando è invece quello che, almeno nella categoria di noi economisti, è passato alla storia per essere quello che prendeva sul serio l'idea dei mercati efficienti, cioè dei mercati che funzionano bene lasciati da soli, e che ne ha fatto non solo una proposizione del tipo è meglio lasciarli fare, cioè una proposizione normativa, ma ne ha fatta una proposizione positiva, cioè di fatto il mercato azionario si comporta proprio come se fosse veramente efficiente, che vuol dire in pratica che non c'è margine per il singolo risparmiatore, come possiamo essere io o lei, di riuscire a essere più furbi del mercato. Cioè, una volta che ci sono abbastanza informazioni e che queste informazioni sono condivise dai partecipanti al mercato, è molto complicato per la singola persona riuscire a battere quello che fanno tutti gli altri messi nel loro insieme. Quindi è una specie di roulette, di terno al lotto, non è molto confortante, se ho capito bene. Sì, cioè che di fatto uno, no, non è una roulette terno al lotto, più che altro è il fatto che uno deve sapere che non può fare delle cose impossibili, ecco, ovvero sia da solo essere più furbo di tutti gli altri. Uno che sui mercati finanziari spera di essere più furbo o più informato di tutti gli altri, un povero illuso. Di solito si prende una fregatura. Senta, Francesco Daveri, vuol dirmi anche una parola giusto su all'Italia? Ha sentito British Airways che dice questo è protezionismo, non vale, intervenga Bruxelles. Come la credo vede? Che abbia ragione British Airways, cioè nel senso che sostanzialmente poi è possibile che esistano delle scappatoie legali per riuscire a difendersi davanti a Bruxelles l'accusa di fare aiuti di Stato, e io non sono un esperto giurista, faccio il macroeconomista, quindi non è proprio il mio campo, però leggendo così sul giornale, informandomi, mi sembra che effettivamente l'intervento che è stato prefigurato assomigli molto a un aiuto di Stato in un contesto in cui invece bisognerebbe lasciare che le aziende competano una contro l'altra, anche perché l'idea che debba esistere una compagnia di bandiera che c'è sul bollino dell'Italia, sì, forse è una cosa che ci può far piacere, però indubbiamente se questo ha un costo sarebbe bene commisurare i costi e i benefici di questo simbolo. Se si riesce in una parola, che cosa avremmo dovuto fare? Che cosa avrebbe dovuto fare il governo? Quindi, lasciare al suo destino? Ma insomma, l'idea di avere comunque un provvedimento ponte credo che fosse ineliminabile, quindi questo va detto. Non so bene se questo sistema che è stato usato o un sistema alternativo che poteva essere passarlo alla Cassa Depositi, insomma un qualche provvedimento tampone credo che fosse in qualche modo necessario per evitare di presentarsi da Air France assolutamente privi di strumenti e quindi vendendo a zero. Insomma, in questo modo magari un po' di tempo è stato comprato e magari si riesce a spuntare un prezzo migliore, ma non credo che ci sia un'alternativa se non trovare una cosiddetta alleanza, che poi vuol dire mettersi nelle mani di qualcuno più grande che ha le spalle più larghe. Grazie Francesco Daveri. Prego, grazie a lei. Grazie, buona serata. Parliamo di calcio. Ed è Dario Ricci che ci spiega questa vicenda di Balotelli, che insomma, diciamo, a volte un pochino più di maturità, di buon senso anche da parte sua, non è che guasterebbe, Dario? Anche tu ti schieri con i pedagoghi di Mario Balotelli. No, non sono una pedagoga, però a volte, diciamo, collegare un po' più diciamo, la parte bassa della testa alla parte più alta potrebbe portare a maggiori risultati, vista la grandezza del personaggio, visto che Time ne aveva fatto l'uomo dell'anno. Insomma, tutto sommato, dall'uomo dell'anno sentire dire che chi se ne importa la mafia, io vengo qui per giocare, non per dimostrare che sono per la legalità. Ma insomma, dai, Mario non l'aveva buttata giù così dura. In realtà è stato un tweet della discordia a creare questa polemica, perché aveva preso le distanze Balotelli da un ruolo di testimonial quasi unico di questa scelta per la legalità e contro la camorra fatta oggi dagli azzurri, che si sono allenati sul campo della Nuova Quarto allo stadio Giarrusso nel napoletano, società che, lo ricordiamo, sottratta dalle autorità a influenze camorristiche. Quindi insomma, diciamo che in questo tweet Balotelli aveva rifiutato questo ruolo, ribadendo soprattutto il suo desiderio di giocare. Quindi insomma, questo è stato il tweet, l'ennesima ballotellata. In serata, dopo i pareri di tanti, forse anche di troppi, ha parlato Cesare Prandelli, il CT della Nazionale. Domani c'è la sfida con l'Armenia, Balotelli è in dubbio causa le condizioni fisiche, e Prandelli ha parlato un po' da allenatore, sì, ma anche da quasi fosse il papà calcistico di Super Mario. Senti un po', Roberta, cosa ha detto. Io penso che in qualsiasi rapporto non ci possa essere solo la freddezza del rapporto professionale, ma devi mettere anche un sentimento, che può essere un sentimento paterno, ma un sentimento fraterno, e quindi un rapporto dove puoi vivere con grande serenità, un grande abbandono e con grande incazzatura ogni tanto. Ovviamente i figli vanno amati, ma ogni tanto ti fanno arrabbiare, certo. Qualche sculacciata ogni tanto, diciamo. Grazie Dario Ricci, noi ci fermiamo qua per il momento, poi vi ricordo tra poco giusto i titoli.